Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Via Monterosa 91 a casa di Carlo Gabardini. Buongiorno Carlo. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Lo sai che ti stai perdendo uno straordinario profumo di disinfettante qui in studio, è incredibile, ormai si pulisce a tutte le ore, tutti i momenti, siamo prontissimi per restare con voi per la prossima ora e mezza in questo appunto profumino di disinfettante. È vero, veri. Oggi abbiamo spostato tutte le lancette in avanti, devo dire che sono ancora un po' frastornato da questa ora legale, infatti sono stato sveglio fino alle 2, così che è esattamente il momento in cui il telefono scatta e diventano le 3, perché tutte le volte che sto lì a mettere la sveglia è sempre quel momento in cui ti dici: ma veramente il telefono si aggiornerà o devo mettere la sveglia un'ora prima, devo mettere un'ora dopo? Ho aspettato le 2, così è stato perfetto, ho messo la sveglia 3 ore e mezza dopo e siamo a posto. È fantastico, quindi parti già con il piede giusto, mi sembra fresco e riposato. Esatto. Allora, 824 0024 è il numero verde per chiamarci e poi partecipare all'indovinello della giornata. Cosa si indovina? Il personaggio della settimana, che come sempre può essere uomo, donna, avvenimento, l'importante che sia relativo a questa settimana e che siate anche pronti ad argomentare il perché avete puntato il vostro dito su una, appunto, quel certo personaggio. Carlo, diamo il primo indizio, no? Che dici? Partiamo subito. Certo che sì, Laura. Allora, il primo indizio è questo: ci ha provato molte volte. Quindi il personaggio della settimana ci ha provato molte volte. E poi restano sempre il 349-238-6666 per SMS e WhatsApp ad un'ascoltatrice che ha scritto poco fa: ma non rispondete a questo numero di WhatsApp se vi chiamo. No, non rispondiamo alle telefonate su WhatsApp, tra l'altro sareste proprio nello studio della diretta, quindi diciamo così saremmo impossibilitati a rispondervi, ma vediamo i vostri messaggi, li possiamo leggere, questo sì. Se volete telefonare invece 824 0024. Che suggerimento hai per i nostri? È il sogno di tutti gli ascoltatori. Sì, buttarsi dentro una diretta. È il sogno di tutti gli ascoltatori andare in diretta via WhatsApp. A gamba tesa in qualunque trasmissione, così. No, non c'è neanche la suoneria, esatto. Quindi tante volte non ce ne accorgiamo neanche delle telefonate, diciamo così. Quindi vediamo i messaggi, poi dopo vediamo che rimane, no? Ti ha chiamato il numero XY. Vai. Comunque, questo è il mistero, certo, per il quale non vi rispondiamo. Dunque, Carlo, dicevo, qualche suggerimento per gli ascoltatori, come ogni domenica? Sì, sì, sì. In un momento in cui tutti i siti e gli organi di informazione, ma a dire la verità anche i vicini di casa e a volte dei passanti al supermercato, ci riempiono quotidianamente di consigli di lettura e di visione, è sempre più difficile districarsi. A volte temo anche che rischiamo un po' l'overdose. Il primo consiglio quindi che mi sento di dare oggi, viste anche le restrizioni nelle consegne di beni non alimentari, è di leggere, se lo avete ancora in casa, il primo libro che abbiate mai letto, o anche uno dei primi, o il primo che vi ricordate di aver letto, insomma. È un'esperienza strana di questi tempi, lo sconsiglio ai deboli di cuore, perché sembra cambiato tutto, eppure sembra che nulla di sostanziale sia mutabile, quindi è un percorso interessante. Il mio primo libro è stato Alberto il Drago, ma avendolo passato a qualche fratello o sorella non ce l'ho mai avuto in quella che oggi è casa mia, quindi ho scovato, impolverato su un ripiano alto la mia copia di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, che in realtà ho letto da più grandicello, anche perché io ho iniziato a leggere non tanto presto, i miei mi ricordo erano preoccupati che leggessi troppo poco. Una volta ho dovuto spiegare ai miei nipoti che Willy Wonka non è di Gene Wilder, che è l'attore che lo interpreta nel film nel 1971, e non è nemmeno di Tim Burton, che è il regista che ne ha ideato un'altra versione nel 2015. È un libro ed è scritto da Roald Dahl, gigantesco scrittore di racconti imprevedibili, di GGG, delle streghe, insomma. per un libro o per l'altro, bene o male lo conosciamo tutti. Comunque io il libro l'ho letto molto prima del film, è un libro stupendo e visto che ieri abbiamo detto del senso di responsabilità dei cittadini a cui si è riferito il nostro presidente Sergio Mattarella, ecco, in queste pagine sono chiare le cose che contano, i valori, il sapersi accontentare di ciò che si ha e anche la speranza che a comportarsi bene un giorno si sarà ricompensati e non dico che si arrivi proprio nella fabbrica di cioccolato, ma perlomeno che si vinca un premio, sì. In alternativa al primo libro vi propongo una seconda scelta personale per ognuno di voi. Quel libro, di solito particolarmente lungo, che abbiamo lì da anni sul comodino o uno scaffale ben preciso, quello che sogniamo di leggere più che di aver letto, perché sentiamo che lì dentro deve esserci qualcosa proprio giusto giusto per noi. Il mio è L'estate che sciolse ogni cosa, di Tiffany MacDonald, edizioni Atlantide, ma al momento mi mancano ancora 6 pagine di Willy Wonka e un sacco di figure, poi stanotte ho perso un'ora, quindi vado avanti con Willy Wonka. Allora, io ricordo perfettamente la copia di Pippi Calzelunghe, con dedica del mio nonno, seconda elementare, regalo di promozione, diciamo, si faceva l'esame, quindi c'era... Quindi avevo meritato allora questo Pippi Calzelunghe. Giusto, lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, poi ovviamente io lo metterò anche sul mio Facebook, quindi se volete scriverlo lì, qual è stato il vostro primo libro o com'è rileggere il primo libro che avete letto, rileggerlo adesso in questa fase di coronavirus, o qual è il libro che dovete assolutamente leggere e che non avete mai trovato il tempo di leggere. Volentieri, se volete anche mandarcelo via WhatsApp o chiamarci per dirci quali sono i vostri libri, noi accogliamo anche i consigli degli ascoltatori. Ce n'è già uno di ascoltatore che ricorda il suo primo libro letto a 6 anni, un libro sul gioco del golf, trovato in una casa affittata per le vacanze di agosto a Rocca di Papa, precisissimo. Vedete che ciascuno poi ha i suoi ricordi. Come ci piacerebbe, Carlo, sentire un po' come si dice state a casa nei vari dialetti d'Italia. Noi ne abbiamo collezionati alcuni e ve li faremo sentire, però insomma ci piacerebbe anche, se avete voglia, appunto di chiamarci sempre all'824-0024 e dirci come nella vostra città, nella vostra regione si dice in dialetto state a casa. Io non mi cimento col milanese, diciamo, perché non è il mio, quindi zero, sto ferma. Stacca, ma in realtà io direi che chiediamo una doppia cosa, ne chiediamo uno che è state a casa come si dice nel dialetto e un altro come lo si dice la seconda o la terza o la quarta volta dopo che becchi lo stesso che non sta a casa, che è ancora in giro, che di solito in dialetto ci sono dei modi coloriti per essere più persuasivi. Ah sì, beh certo, sicuramente vi potete un po' sbizzarrire, l'importante è, ecco, essere compatti, non fateci un discorso ma 2 o 3 slogan ben detti in dialetto, senza possibilmente vero improperi e parolacce, forse potremmo chiedere. Giusto. Allora Carlo, tra pochissimo, e qui anche ci interessa il parere degli ascoltatori, parleremo di questo famigerato metodo Corea, ovvero essere tracciati attraverso gli smartphone in modo da ricostruire, diciamo, gli spostamenti e suggerire a tutti coloro che sono venuti in contatto con una persona poi risultata positiva al virus di starsene a casa, per l'appunto di riguardarsi, di fare la quarantena, di farsi fare i controlli a seconda, o comunque se la persona manifesta dei sintomi, ecco, già avere il sospetto. Non so se tu saresti così disponibile a condividere i tuoi dati. Io in una certa misura sì, sempre con una diciamo tutela, diciamo, della privacy, no? Che poi è quello che ci preoccupa di più. Ma io è una domanda che mi faccio spesso, diciamo di primo acchito direi no, io non sono molto d'accordo nel senso che un minimo di privacy, poi è ovvio che questa è una situazione emergenziale, però la vera cosa che io vorrei capire è di che cosa parliamo quando parliamo di condividere i dati, perché da un lato c'è condividere i dati per esempio per sapere quel dato quando si disse il 40% dei lombardi continua ad andare in giro, beh quello sì. sì, perché sono dati assolutamente non legati a una persona, è semplicemente per sapere come si muove una popolazione e se in una zona o determinate fasce della popolazione hanno o meno recepito il messaggio di doversene stare a casa e quindi poi fare delle azioni affinché lo capiscano. Invece qua mi sembra che stiamo parlando anche di condividere i dati, anche i dati sanitari da un certo punto di vista, quindi ho bisogno di capire, sono molto molto curioso di capire. Allora, vediamo un po' come ci si può muovere, cosa si può fare, che cosa stanno pensando, qual è la proposta che è arrivata in particolare da due docenti del Politecnico di Milano, fondatori anche di due spin-off del Politecnico stesso, che sono Giuliano Noci e Alfio Quarteroni. Che hanno lanciato questa petizione che riguarda appunto la donazione volontaria dei dati. Giuliano Noci è nostro ospite, docente di strategia e marketing alla School of Management del Politecnico di Milano, esperto anche di Cina. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e buona domenica a tutti. Grazie. Allora, vediamo un po' di parlare di donatori di dati, innanzitutto dati sanitari ovviamente. Qual è la proposta che state portando avanti con questa petizione su change.org? Ma la proposta parte da un presupposto di fondo che dobbiamo essere tutti, l'individuo deve essere utile alla società per cercare di uscire da questo tipo di emergenza. Che cosa può fare l'individuo? In passato ci sono i volontari che donano il sangue per coloro che sono malati. Oggi, con le tecnologie che sono a disposizione, si possono donare i dati. Si possono donare i dati del singolo individuo, dei suoi spostamenti, di con chi è entrato in contatto e sostanzialmente questo, come le esperienze della Corea del Sud e di altri paesi dimostrano, è di straordinaria utilità per salvare umane. Dunque, ma come li facciamo a donare questi dati? Beh, è molto semplice, cioè, sostanzialmente. Innanzitutto, come la nostra idea è che sia su base volontaria, quindi in primo luogo. In secondo luogo ci deve essere un intestatario pubblico, la protezione civile, ad esempio, che raccoglie questi dati e che li utilizza temporaneamente per gestire l'emergenza. E in terzo luogo l'operatore telefonico che è disponibile per il tracciamento. Queste tre condizioni unite all'intelligenza artificiale ci possono permettere di gestire al meglio l'emergenza, ma ripeto, soprattutto di evitare questo incredibile e tragico numero di morti che quotidianamente registriamo. Ricordo ai radioascoltatori che noi in questo momento stiamo gestendo l'epidemia con gli stessi strumenti che si usavano nel Medioevo. Mi pare davvero atemporale. Carlo, mi sembrava Senta, tu volessi io, fare... Io volevo capire, ma di qua, nel senso, stiamo parlando solamente dei dati di spostamento o stiamo parlando anche dei dati sanitari? Per quanto riguarda i dati sanitari, da questo punto di vista il livello di sofisticazione può crescere, nel senso che si possono utilizzare, nel caso si volesse, anche quelli e su base volontaria, ripeto, quelli che sono anche la microcamera e il microfono dello smartphone per rilevare ad esempio colpi di tosse e quant'altro. Quindi potenzialmente può essere fatto anche questo. Francamente, ripeto, non capisco questa situazione. Prego. No, la cosa che non capisco è se non ci sono i dati sanitari, che cosa servono i dati dei tracciamenti, dei movimenti? Io non so se tu sei malato, hai fatto il tampone, se sei anziano, non so niente, se non ho i tuoi dati e ho semplicemente il tracciamento, questo non credo che aiuti molto la lotta al Covid. Invece aiuta molto quello che diceva prima, giustamente, se io so che tu sei malato, so chi hai incontrato, allora posso intervenire. Allora, ci sono molteplici livelli di intervento. In primo luogo, nel momento in cui un individuo viene registrato positivo, grazie a questo tipo di tracciamento, immediatamente si possono andare ad individuare tutti gli interlocutori con cui è entrato in contatto. La tempestività è fattore... Però servono i dati medici. Non necessariamente, nel momento in cui... non dallo smartphone. Nel momento devo sapere che è positivo. Mi permetta, se io sono volontario, ok? Ho aderito a questo tipo di campagna, ok? a un certo punto ho dei sintomi. Questi sintomi mi portano ad andare all'ospedale, ok? Vengo rilevato come positivo. Sì. Nel momento in cui vengo rilevato positivo, immediatamente si innesca un processo di tracciamento di tutte le persone con cui sono entrato in contatto. E questo è un primo livello di intervento. Quindi, se comunico che sono, che sono stato... No, comunico, che sono positivo, perché se non comunico e non rendo libero anche il dato della mia positività, no, ma non deve comunicare, non posso matchare i due dati. No, mi perdoni, non sta capendo. Non deve comunicare, va all'ospedale come tutti i cittadini oggi, cioè vengo rilevato come positivo, immediatamente, in quanto positivo, viene tracciato. Come ha fatto, guardi, come ha fatto a Singapore, come sta facendo quando la Corea del Sud, eh? Non è che stanno facendo nulla di diverso, nulla di diverso. È stucchevole quanto sta avvenendo da questo punto di vista in Italia, così come è stucchevole il numero di persone che parla senza aver letto il GDPR e che dice che c'è il GDPR. Il GDPR in situazioni di emergenza, come dice il regolamento comunitario, può essere superato. Sì, come ci diceva tra l'altro il nostro ospite, il garante, non nostro, di Radio 24, il garante della privacy, cioè diamoci un tempo, no? Non è che dobbiamo per sempre stravolgere, ma adesso ci serve questa cosa. Quindi... Guardi, le dico un'altra cosa poi, che è ormai molto chiara. Lei mi ha definito come esperto di Cina, la frequento da 20 anni. Mm. In Cina in questo momento stanno ripartendo casi di ritorno. Questo... Finché non avremo un vaccino, da questa situazione non ne usciamo. Quindi o ci rendiamo conto che le tecnologie sono uno strumento indispensabile per gestire questa emergenza, o altrimenti non ne usciremo. Vogliamo rimanere per 18 mesi chiusi e a quel punto subentrerà una carestia? È davvero incredibile quanto si sta verificando in questo paese, che non valorizza quelle che sono le potenzialità, nel rispetto, ripeto, dei diritti delle persone. Questi dati non sono in possesso di un singolo individuo, sono in possesso di colui, quello stakeholder, che è la protezione civile, che sta gestendo l'emergenza per salvare vite umane. Certo. Professore, grazie molto di questo collegamento e delle spiegazioni e delle riflessioni che dobbiamo fare su questo punto. Noi ci dobbiamo interrompere per dare spazio alle notizie sul traffico. A tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno a tutti. Avete qua a Camenco. Ogni giorno andate in zero. Bisogna stare a casa. Non fa i patacchi, sburon. Stasi a casa. Perché sennò è coronavirus. Se portano a casa. Dalla Romagna questa esortazione a stare a casa, non la voglio ripetere, però insomma non fate gli sburoni, mi pare che abbia detto una cosa di questo genere, vero Carlo? Sì, io ho sentito espressamente patacca. Il patacca, sì. Va bene, comunque continuate pure con i vostri messaggi. Noi cercheremo di scaricarne il più possibile per sentire un po' in tutta Italia come si dice state a casa, non fate gli sciocchi, non fate i patacca, come ha detto questo ascoltatore. Bene, abbiamo un prossimo collegamento che ci vuole rassicurare su un punto su cui si è un po' discusso negli ultimi giorni, ovvero la rete elettrica. Stiamo tranquilli, ne abbiamo bisogno disperatamente in questi giorni, tutta elettricità, tutti i frigoriferi funzionano, tutti i computer funzionano, elettricità, le reti, qualunque cosa. Bene, sono molto contenta di ritrovare qui a Si può fare l'amministratore delegato di Enel, che è Francesco Starace, già in collegamento con noi. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora stiamo tranquilli. Buongiorno. No? Stiamo tranquilli da questo punto di vista. La rete e l'epidemia non, non, non vanno in collisione, ecco. No, non ha toccato la rete l'epidemia, questo no. Benissimo. Abbiamo fatto tante prove per rassicurare un po' noi prima e poi tutti quanti del fatto che anche se c'è il coronavirus la rete elettrica continua a fare il suo mestiere. Ovviamente lo fa nella sicurezza degli operatori. È quello che abbiamo dovuto provare e vedere come cambiare il modo di lavorare in modo tale che la rete continui a fare il suo mestiere e gli operatori non abbiano rischi. Benissimo, so che abbiamo letto un articolo in particolare del Corriere della Sera di qualche giorno fa in cui si dava conto di ben 35.000 persone in tutto il grande gruppo Enel, che non è solo Italia, ma insomma 35.000 persone in smart working. È cambiata un bel po' la vita, insomma, anche per voi. È cambiata tanto. Pensi che in Italia ce ne sono 15.000 di quei 35.000, che poi sono 36. Il resto nel mondo, anche in parti del mondo dove ancora non hanno fatto il lockdown completo come in Italia, quindi abbiamo messo in sicurezza i colleghi un po' dappertutto. E poi ci sono, non dimentichiamoci, altri 35.000 nostri colleghi che invece sono quelli che lavorano sulle reti, nelle centrali, e anche per loro abbiamo cambiato tante cose, perché anche il lavoro che non si può fare da casa e che è necessario fare per mantenere l'integrità del servizio è stato in qualche maniera cambiato proprio per ridurre il rischio di contagio e mettere in sicurezza tutti. Tra l'altro voi lavorate molto in Spagna, no? Quindi anche immagino una particolare cautela. In Spagna purtroppo i nostri colleghi stanno vivendo quello che abbiamo vissuto noi 2-3 settimane fa. Sì. Ho letto proprio questa mattina su Sole 24 Ore in particolare di squadre, no? In modo che siano alternati, che non ci sia, cioè che ci sia sempre qualcuno operativo e pronto a intervenire nel caso qualche altra squadra risultasse contagiata dal virus. Sì, calcoli che degli altri 35.000 che ripeto non possono lavorare da casa perché non hanno un ruolo di tipo impiegatizio, circa metà è a casa. Questa percentuale poi varia un po' da paese a paese, ma circa metà è a casa in attesa di essere chiamata, quindi non fa nulla, non lavora sull'impianto, ma è pronta a intervenire nel caso ci sia necessità. Quindi abbiamo una forza lavoro, come dire, in attesa, pronta a intervenire su queste cose. Abbiamo interrotto le attività non essenziali alla continuità del servizio proprio per non esporre nessuno a rischi inutili. Io le volevo chiedere, Carlo, poi dopo ti lascio la parola, ma sull'aspetto dello smart working, quanto era già diffuso in azienda, no? Quanto eravate già rodati su questo punto? Noi avevamo da 3 anni circa 2.500 persone che facevano smart working una volta alla settimana, quindi un giorno alla settimana, a rotazione. Quindi rispetto ai 35.000 che lo fanno sempre, è un bel cambio. Però avevamo capito tante cose dello smart working che ci sono servite proprio per farlo in maniera giusta e senza traumi. Mai avremmo pensato di farlo tutti contemporaneamente e che il sistema sarebbe stato in grado di accettare questo carico di lavoro pazzesco senza fare una piega, senza nessun problema. Allora, volevo proseguendo su questo aspetto, ovviamente ci saranno, abbiamo letto appunto sempre in quell'articolo che le citavo prima del Corriere, una serie di problemi dovuti ai mancati introiti, ma al di là di questo vado diretto alla situazione attuale, diciamo. Avete da una parte donato 23 milioni di euro alla Protezione Civile e dall'altra donato una serie di collegamenti agli ospedali da campo. Quindi, nonostante il calo degli ingressi, c'è un investimento sulla situazione notevole da parte dell'azienda. Beh, diciamo che ci sembra necessario cercare di contribuire in questo momento all'emergenza più importante, che è l'emergenza sanitaria. Se uno vede quello che sta succedendo, che è successo negli ospedali, non c'è altro da fare. Quindi cercare di contribuire per aiutare tutti quelli che sono in prima linea a combattere questa battaglia per noi era fondamentale ed è quello che abbiamo deciso di fare. Tutto il resto, dopo la continuità di servizio alla nostra salute, è questo che dobbiamo fare. Abbiamo messo in subordine tutte le altre nostre attività, che poi riprenderanno appena questa cosa finirà. Oggi l'importante è che tutti capiamo che la battaglia si svolge negli ospedali, nelle camere di cura intensiva, e dobbiamo proteggere i medici e gli infermieri che fanno questo lavoro sacrosanto e aiutarli nella Madonna, nella migliore maniera. Quindi chiaramente, come noi lo stanno facendo anche altri, noi pensiamo che è questa l'emergenza e su questo ci dobbiamo battere. Vedo qualcuno che ci chiede del prezzo dell'energia, e questo non dipende da voi, no? Dall'autorità, sì. Almeno sul livello base, diciamo. Sì, ma diciamo, quello è un calcolo che viene fatto ogni 3 mesi, adesso è stato appena fatto, i prezzi sono scesi in maniera importante del 18%, la percentuale di calo della bolletta dal punto di vista del contenuto dell'energia. Questo è un calcolo che viene dalla caduta dei prezzi delle commodity petrolifere, quindi diciamo che aiuta, è venuto nel momento giusto. Sì, è tutto collegato, certamente, sì. Certamente tutto collegato alla vicenda. Cosa pensa resterà in azienda, diciamo, di questa esperienza che stiamo vivendo da un punto di vista organizzativo, dicevamo prima dello smart working, ma anche di preparazione, no? di stress di questo tipo? Prima di tutto devo dire, quello che penso che rimanga in azienda dopo tutta questa esperienza è un grandissimo senso di unità e di spirito di servizio, che sono i valori fondanti di questa azienda. E nonostante che adesso noi siamo tutti isolati in casa, ognuno nella sua dimensione privata, ho riscontrato un incredibile senso di ricerca di unità e di stare insieme anche nello spazio virtuale. Secondo, stiamo facendo un corso intensivo di digitalizzazione tutti insieme, quindi credo che quando torneremo a lavorare non potremo più tollerare i sistemi antichi e i metodi che avevamo, ma sfrutteremo questa nostra conoscenza in maniera assolutamente nuova e quindi saremo molto più efficienti, molto più capaci di affrontare la nuova realtà. E probabilmente anche all'interno degli impianti e delle linee elettriche faremo tesoro di questa esperienza per cercare di essere più veloci a rispondere alle esigenze della popolazione, delle persone, perché questo è oggi quello che è per noi è la prima preoccupazione. Io la ringrazio molto per questo collegamento, Francesco Starace, l'amministratore delegato di Enel. Buon proseguimento, buon lavoro, ne avete tanto in questo periodo. A risentirci. Sì, arrivederci. E adesso la linea va a GR24. Carlo, ci troviamo subito dopo, pronti sul pezzo. Certo. Si può fare. Teste minga ca te dur già funi a due finché diventa in disper. Oppure o mi scheraccio, in dove tu vai? Sta a casa. Vabbè, io stavo ridacchiando. Carlo, buongiorno di nuovo. Buongiorno, io mi sto dando degli schiaffoni e finché non diventano, me li sto dando a due finché non diventano dispari, non mi sveglio. Oh, mischeraccio, oh, c'è anche quello. Bene, ce ne sono tanti di messaggini che stanno arrivando e Edoardo Lavezzari sta facendo del suo meglio per processarli, perché vanno scaricati da WhatsApp, poi insomma non so che cavolo deve fare, però insomma deve fare qualcosa e poi alla fine arrivano alla diretta. Nel frattempo vi dico anche che tra i libri, diciamo i primi libri, sono arrivati ancora La fabbrica del cioccolato, I ragazzi della Via Pal, 20.000 leghe sotto i mari, e poi invece c'è qualcuno che parla di quello che sta leggendo adesso, e cioè finalmente Guerra e pace. Vedi Carlo che hai dato un'idea, insomma, Mi sembra perfetto. Mi sembra meglio dare così dei consigli personalizzati, dove ognuno ci deve mettere la propria esperienza, piuttosto che dire leggi quel libro lì, esattamente quello. Invece, sì, anche perché adesso è difficile magari andarselo a prendere, no? Chi vuole il libro cartaceo deve ordinarlo, poi gli deve arrivare, o altrimenti no, fare l'ebook. Sì, giusto. Ricordiamo anche che siccome le consegne ovviamente hanno la priorità ai beni alimentari, diversi operatori che spediscono libri hanno detto al momento non li possiamo mandare, insomma. Poi c'è qualcuno che giustamente dice forse anche i libri sono dei beni essenziali, soprattutto se questa quarantena andrà ancora avanti a lungo, ma insomma è un dibattito aperto. È un dibattito aperto, ma intanto riprendete i libri che avete letto da giovani oppure prendete quelli che avete in casa e da tempo stanno lì sul comodino senza arrivare a conclusione all'ultima pagina. Ricordo il personaggio della settimana 824 Brava, anch'io volevo 0024. ricordartelo. Esattamente, ci ha provato molte volte, questo è l'indizio che abbiamo dato fino ad adesso. Poi magari, se proprio, tra poco ne diamo un altro, che dici Carlo? Vedo un po' di Certo difficoltà che sì, oggi. assolutamente. Era per questo, infatti, che ti attendevo al varco. Mi Quando vuoi, attendo. io do il secondo indizio. Vabbè, allora dai, dallo, facciamo i bravi, diamolo subito. Il secondo indizio è: non lo sentivamo da tempo. Quindi ci ha provato Da un molte po' di volte, tempo aggiungo, da un po' di tempo, aiuto, do un dai. piccolo aiutino. Non lo sentivamo Non lo da un sentivamo po'. da un po' di tempo. Oh, nel frattempo arrivano anche le tigri di Mompracen e ne ho letto un altro, Cime Tempestose. Eccoli qua, i primi libri che sono stati letti dai nostri ascoltatori. Ma andiamo Mi fa sulla. molto piacere sentirli dire, perché non avendo io i WhatsApp, ma potendo oggi al momento leggere solamente gli SMS, mi fa molto piacere sentirmi in onda quali sono i primi libri che i nostri ascoltatori stanno leggendo. Allora, la nostra ospite adesso è già in linea ed è Lucia Adamo, Chief People Officer, forse potremmo dire, lo chiediamo a lei, anche responsabile risorse umane di Thun. Thun, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Allora, Thun, conosciamo tutti i prodotti, Thun, non lo so, vogliamo dire gli angiolotti, quelli morbidosi, ecco, per esempio. Ed è una produzione chiaramente che. È più un presente, è più da regalo, no? Di solito. Assolutamente. Quindi in questo momento sicuramente un qualcosa che si vende con maggiore difficoltà, non è un bene essenziale, non è alimentare, ma voi siete comunque, avete recentemente annunciato che garantirete comunque la retribuzione ai dipendenti al 100%. Chiudete fino al 2 di maggio, ma tutto come prima. Come ci Esatto. riuscite? Per quanto è sostenibile anche questa scelta? Ma ci siamo dati un orizzonte temporale che dura, perché comunque in questo momento i nostri negozi ovviamente sono chiusi, a parte l'online, che per quanto non siamo bene di prima necessità, con tutti i tempi e tutte le restrizioni, ma è comunque attivo. Ma i nostri negozi sono chiusi, ci siamo dati un orizzonte temporale di marzo e aprile. E confidiamo che poi pian piano con il mese di maggio le cose insomma, possano andare a migliorare. Come facciamo? Come abbiamo fatto? In tutti i momenti, nei momenti di scelte, un po' si vedono, bisogna fare esattamente in priorità le cose che per noi, ma anche per un'azienda, diventano fondamentali, diventano essenziali. Quindi abbiamo deciso. Anche in questa situazione di dare priorità ai nostri dipendenti e quindi attivando un fondo di protezione, abbiamo deciso di integrare al 100% le retribuzioni dei dipendenti. È un fatto di scelte. È un fatto di scelta, è un fatto di dove vogliamo investire, insomma. Esattamente, esattamente. Voi avete produzione in Italia e all'estero anche, misure simili, diciamo, ovunque. In realtà all'estero, le nostre produzioni all'estero sono affidate dei partner, ma ci sentiamo costantemente con cui abbiamo una linea diretta e al momento non ci sono criticità particolari, ma assolutamente dipendenti, anche in quel caso sono stati messi in sicurezza, le produzioni sono rallentate, però siamo confidenti che alla ripresa non mancherà nulla perché si possa ricominciare in maniera completa. Mi dicono, mi fanno notare la Thun fa gli angioletti, l'oggettistica in cristallo. No, non è in In cristallo, in ceramica, esatto, è ceramica. ceramica. E non sono, no, i peluche, no, io non intendevo dire i peluche, non so, sono No, morbidosi perché hanno le delle forme forme. Sei morbide, eh? bravissimo. Le forme Esatto. sono morbide. Chiaramente la Assolutamente. questione, beh, poi dopo se anche fosse peluche non è quello il tema nostro, il tema era la garanzia per il dipendente, perché qui veramente c'è una questione che si sta allargando a macchia d'olio di preoccupazione di persone che appunto vedono nero nel loro futuro, no? Sì, noi abbiamo deciso di invece cercare di vedere, di affrontare la situazione per quella che è, di affrontarla in maniera razionale, in maniera rigorosa, ma di cercare di agire in maniera scalabile e di non, insomma, di mantenere un certo ottimismo. E questo abbiamo deciso di farlo non soltanto con la messa in sicurezza della parte retributiva, ma di investire sulla popolazione aziendale, oltre che naturalmente sulla sicurezza personale, i temi di smart working che abbiamo sentito anche prima, attivati immediatamente e quant'altro, ma anche di preoccuparsi della sicurezza emotiva. Emotiva, scusi, non l'abbiamo sentito. Emotiva, sì, la sicurezza emotiva dei dipendenti, perché questa è una situazione di emergenza per tutti, è una situazione che non sappiamo come affrontare, e per cui abbiamo cercato di far pesare il senso della nostra comunità. E il peso della comunità abbiamo per farlo avvertire a tutta la popolazione aziendale. Noi abbiamo addetti vendita, store manager in tutta Italia, varie sedi. Quanti sono i dipendenti? Chiedono gli ascoltatori, chiedo anch'io. In Italia un migliaio. Un migliaio? Un migliaio, sì. E abbiamo deciso per questo di, ad esempio, cambiare la modalità di comunicazione. Invece che comunicare attraverso mail, io per esempio, invece di comunicare in maniera consueta, attraverso mail, attraverso lettere, di farlo in call, utilizzare la tecnologia. Settimanalmente, da quando è iniziata questa emergenza, io incontro tutti i collaboratori in call di gruppo, ci confrontiamo, sono call in cui non parlo solo io ovviamente, ci confrontiamo, ci raccontiamo le esperienze, e io aggiorno i colleghi su come il board, il CDA e l'executive si sta muovendo in questa emergenza. Abbiamo deciso di attivare un programma di webinar interni gestiti dai collaboratori fin dal primo giorno dell'emergenza, per cui dai corsi di Excel con i colleghi esperti di Excel ai corsi a momenti, abbiamo alle 17 parliamo di viaggi e i colleghi raccontano, chi vuole raccontare un viaggio che ha vissuto particolarmente bello lo racconta agli altri. Abbiamo deciso di facciamo ginnastica la mattina con le colleghe più sportive che si mettono a disposizione. Attività di questo genere, dimostrazione di vino, le ricette di colleghi che in Italia, store manager, di vendita, appunto dicevo, in tutta Italia, raccontano le ricette regionali alle 11, insegnano agli altri colleghi come si fanno i piatti tipici. Attività di questo genere che sono tra l'altro super gradite e che riscuotono una grandissima partecipazione e ci fanno sentire, ci stanno facendo vivere un po' questa emergenza, un po' anche prima dicevate, cose che si possono imparare. E certo, poi tra l'altro scoprirete, no? Scoprirete, esatto, l'uno dell'altro nuove cose, assolutamente. Allora, noi dobbiamo salutarci, la ringrazio molto davvero per questo collegamento, Lucia Adamo, buon proseguimento, in bocca al lupo per tutto, a tutti. Abbiamo una piccola pausa. Si può fare. Non sta a fare il mona, sta a casa. Dai, abbiamo, vabbè, la dobbiamo tradurre, Carlo, no, non credo. No, però direi che è stato aggirato il tuo divieto di parolacce, perché usando il dialetto ovviamente lo so. Può dire qualunque cosa. Ma i veneti subito mi hanno scritto dicendo ma in Veneto non è possibile. Va bene, cosa devo dire? Allora, torniamo su una questione di cui abbiamo già un po' parlato la settimana scorsa, che è quella dello sport. Lo sport, sappiamo, si è fermato, ma gli sportivi in particolare non si fermano, tantomeno si fermano quelli dello Special Olympics. E allora a questo punto noi avremo non una, bensì due ospiti. La prima è Alessandra Palazzotti, direttore di Special Olympics Italia. Buongiorno. Ah, addirittura già in collegamento. Quindi abbiamo Valentina Vezzali prima in collegamento, ex fiorettista, testimonial di Special Olympics. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, so che sarete tutte e due, ci sarai tu Valentina e ci sarà anche poi la direttrice di Special Olympics Italia. Intanto a te Valentina chiediamo di dirci qualcosa di Special Olympics, appunto. Ma Special Olympics è un'associazione la cui missione è quella di dare a bambini e adulti con disabilità intellettiva l'opportunità di allenarsi e di gareggiare in una varietà di sport olimpici. È un mondo che ho avuto l'opportunità di conoscere in una delle tante iniziative delle quali sono state testimonias lo scorso anno, e quest'anno sono ancora legata a loro con una campagna benefica con te saremo ancora più forti, lanciata da Procter & Gamble in collaborazione con Acqua e Sapone. La mission di questa campagna è quella appunto di raccogliere fondi per sostenere le palestre che in Italia danno l'opportunità a questi atleti speciali di allenarsi, ovviamente in attesa che queste palestre possano riaprire. E certamente. Carlo? Ciao Valentina, sono molto contento che tu sia qui con noi e mi sembra una bellissima iniziativa questa, anche perché appunto lo sport è fermo e non bisogna nemmeno dimenticarsi di tutte le cose che lo sport fa anche appunto per chi ha bisogno, come in questo caso. Io volevo farti anche una domanda in generale, ovvero volevo capire che cosa significa da un punto di vista simbolico e per un atleta lo spostamento delle Olimpiadi, perché ne abbiamo sentito parlare parecchio in questo periodo e ovviamente insomma da quello che abbiamo capito è se uno è in una squadra, abbiamo sentito Zaitsev che diceva è meno grave per la pallavolo spostarle di un anno, invece per gli sportivi singoli, quindi il giocatore di tennis piuttosto che il nuotatore, è molto più complicato. Quali sono le difficoltà dello spostamento? Io innanzitutto direi che ci troviamo a vivere una situazione del tutto eccezionale. Se pensiamo nella storia delle Olimpiadi, le Olimpiadi non si sono disputate solo durante le guerre mondiali e ora invece ci troviamo in un momento inatteso, delicato e complesso. E in questo momento io credo che la salute vada anteposta a tutto il resto. Io ho disputato ben 5 Olimpiadi e per un atleta l'Olimpiade rappresenta il massimo traguardo possibile e immaginabile. Arrivare a farla è bellissimo, a vincerlo ancora o a vincere una medaglia ancora di più. Un atleta programma la sua stagione, il suo obiettivo in un quadriennio, quindi un'Olimpiade non si prepara in un giorno e ovviamente questo era il periodo in cui l'atleta avrebbe dovuto tirar fuori, arrivare insomma a dare il massimo. Ma dato che l'Olimpiade rappresenta l'obiettivo supremo, io credo che da atleta, da ex atleta, parla fra un anno, fra due anni, non avrebbe cambiato assolutamente nulla. Ovviamente l'età anagrafica inciderà, ma quando si ha una motivazione così, così forte si può superare tutto. E io credo che in questo momento così eccezionale, prima pensiamo alla nostra salute, le Olimpiadi il prossimo anno saranno, mi auguro, una bellissima festa dove tutto il mondo potrà incontrarsi, potrà festeggiare i vinti e i vincitori. Abbiamo adesso anche Alessandra Palazzotti, come dicevo prima, direttore di Special Olympics Italia o direttrice, non so cosa preferisce, in ogni modo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Alessandra, allora che cosa abbiamo sentito di cosa si tratta, cosa si riesce a fare in questo periodo con i vostri atleti che ovviamente sono forzatamente anche loro no, a casa in una certa, penso, misura, totalità sì, probabilmente. Assolutamente, sono tutti a casa e diciamo che hanno iniziato proprio loro a lanciare una campagna inizialmente di contagio con il sorriso perché diciamo che loro di isolamento ne sanno qualcosa ancora prima di questo momento insomma in cui lo stiamo vivendo tutti e quindi hanno voluto lanciare un messaggio così di serenità e di speranza con tantissime foto sui social appunto con il sorriso. Da lì poi noi abbiamo iniziato a fare tutta una serie di attività per fare in modo di scadenzare la giornata, perché comunque la loro routine è cambiata. In alcuni casi il cambiamento della routine, oppure appunto il fatto che non ci sia più una routine, può creare molti disagi. E allora la mattina, tutte le mattine fanno attività sportiva, sui nostri social mettiamo dei video per fare attività sportiva, poi il pomeriggio diamo dei consigli utili da parte di optometristi, dentisti, nutrizionisti, così dei consigli per stare a casa. Abbiamo un gruppo di psicologi che gratuitamente si è messo a disposizione per supportare tutte quelle famiglie che hanno davvero difficoltà, perché comunque un cambiamento così radicale è difficile per tutti. Però forse per chi ha delle difficoltà già di partenza, diciamo, le ha ancora un pochino di più. E loro postano i loro video mentre fanno ginnastica, e, cioè è molto interattivo il rapporto, e quindi stiamo cercando in qualche modo di coprire questo momento così difficile, di dare un supporto per quanto possiamo. Certamente, sì, immagino appunto per ragazzi con disabilità questo cambio repentino delle abitudini che si hanno è ancora più difficile sicuramente. Postate, vi sentite, magari vi siete dato qualche appuntamento magari per l'estate, quando sperabilmente insomma la situazione sarà più calma? Beh sì, noi anche proprio con le iniziative fatte con il supporto di Valentina e con Proxer, insomma con tutti gli altri partner, abbiamo deciso di spostare tutte le iniziative dopo l'estate, quindi dopo l'estate faremo moltissime cose, avremo dei beach games, quindi giochi sulla spiaggia, diciamo che stiamo in questo momento lavorando proprio per fare in modo che il momento dell'incontro sia davvero fantastico, perché tutti gli atleti scalpitano tantissimo. Se abbiamo dovuto cancellare i nostri giochi nazionali, tra l'altro in un momento ancora molto, diciamo, prima della crisi grossissima, ma perché avevamo capito che non li potevamo organizzare, proprio perché la salute dei nostri atleti è prima di tutto, va prima di tutto, e quindi questo ha creato un ulteriore vuoto, per cui noi ora ci stiamo veramente concentrando in modo che da settembre in poi incrociamo le dita e possiamo ripartire con una serie di eventi dove insomma ci possiamo riabbracciare tutti, che poi l'abbraccio nei nostri eventi è una delle cose fondamentali, perché tutto si respira negli eventi Special Olympics, tranne che pietismo o insomma un po' di tristezza, come a volte si pensa, no, possa essere il mondo delle persone. Sono eventi sportivi, io credo che si respiri la stessa area di competizione che Valentina conosce benissimo. È sana competizione, gioia, sì, poi Valentina lo sa, insomma, ha incontrato spessissimo i nostri atleti, quindi sa quello di cui sto parlando, insomma, questa grande gioia per il fatto di essere lì tutti insieme, per il fatto di mettersi alla prova e quindi di in qualche modo non tanto scontrarsi con l'avversario, ma provare i propri limiti e superare i propri limiti. Quindi c'è questa voglia di forte condivisione che è importantissima. Valentina Vessali, sei ancora in collegamento? Sì. Assolutamente sì, anzi condivido pienamente le parole di Alessandra. Special Olympics è un'associazione fantastica, anche perché quello che ho notato entrando a contatto con questi atleti speciali è che l'attenzione viene spostata proprio su quello che gli atleti riescono a fare, non su quello che non riescono a fare. E è bellissimo, lo scorso anno ho imparato il motto degli atleti speciali, che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. È una frase bellissima e credo che debba essere alla base di ogni tipo di attività che si conduca nella vita. Sicuramente sì, stavo riflettendo sul ruolo, Carlo, non so se anche se ancora, vero, ci sei, non è che sei caduto, che non sento sì, più sì, volare una mosca. Sul ruolo degli sportivi. Bravo, in questo esatto, momento. In questo momento è l'esempio, no, che potete portare e dare di resistenza, anche di forza. Beh, è un momento davvero difficile, seguo anch'io nei social tutte le varie attività degli che Special Olympics in questo momento sta facendo con gli atleti speciali, ma sto seguendo anche nei social le tante attività che i maestri tecnici di altre discipline sportive stanno facendo per cercare di coinvolgere gli atleti che i ragazzi che in questo momento stanno vivendo questa situazione particolare a casa. Anch'io ho due figli piccoli ed è difficile riuscire a tenerli in casa tutto il giorno, e attraverso un po' di attività fisica, seguendo le indicazioni degli esperti, è bellissimo poter condividere un momento di attività, di movimento insieme a loro, anche stando da casa. Io ringrazio. No, sì, prego. Non vorrei rinverdire l'antica battaglia fra il gioco del calcio e gli sport meno ricchi, ma volevo chiedere a Valentina, visto appunto il ruolo sociale degli sportivi, che mi sembra che in questi giorni sia ancora più importante, volevo chiedere un commento sul fatto che i giocatori del Barcellona hanno rifiutato di abbassarsi lo stipendio. Io credo che ognuno di noi abbia una coscienza e debba agire su quella. In questo momento dobbiamo guardare oltre e quindi dobbiamo pensare esclusivamente a venire fuori da questa situazione. Quello che conta è far squadra, essere uniti per combattere un nemico che ancora non conosciamo bene, e quindi io sposterei l'attenzione su questo. Grazie Valentina Vezzali, Alessandra Palazzotti, buon lavoro e a ritrovarci presto, dai, dall'estate in avanti, diciamo così, con gli Special Olympics. Grazie, grazie a voi. Abbiamo una piccola pausa, tra pochissimo. Grazie mille. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci con un concorrente per il nostro indovinello, bisogna capire il personaggio della settimana. Abbiamo in collegamento chi? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Alessandro da Venezia. Alessandro da Venezia, cosa sta facendo Alessandro? Sono sul trattore. Come a Venezia, sul trattore? A Venezia. In tangenziale, dov'è che è? Yeah. No, non sono proprio della città, sono della provincia di Venezia. Benissimo, beh, quindi ci ascolta dai campi, questo ci fa molto piacere, ci fa molto piacere. Allora, la immaginavamo in piazza San Marco col trattore, era un'immagine stupenda, la piazza completamente vuota e improvvisamente un trattore dentro Venezia. Guardi, andare col trattore in piazza San Marco è pericoloso, perché ci ha provato qualcuno con una cosa simile anni fa e hanno fatto quelli secessionisti e hanno passato. Ce lo ricordiamo tutti, infatti era esattamente su quello il commento. Sì. Allora, secondo lei chi è Alessandro, il personaggio della settimana? Bertolaso, dunque, gli indizi che abbiamo dato non si sentiva da un po', perché Bertolaso secondo lei? Beh, Bertolaso perché non si sentiva da un po', perché ci ha riprovato una seconda volta, nel senso che diciamo che è stato chiamato per organizzare, diciamo così, ad aiutare la protezione civile, ecco, secondo me erano indizi abbastanza... Attinenti, sì. Sentiamo un po'. C'è stata molta suspense. Sì, io infatti, in realtà volevo chiedere a capire. Prego, volevi capire? Volevo capire se la notizia legata a Bertolaso era il fatto che lui si stava occupando del coronavirus, o il fatto che era stato colpito dalla malattia, ovvero messo in quarantena in quanto risultato positivo. Vabbè, comunque. Ma vanno bene entrambe. Vanno bene entrambe, corrispondevano entrambe, ma non è il personaggio corretto. Quindi 800 24 0024, se volete provare a indovinare chi ci ha provato molte volte, chi non sentivamo da tempo, forse possiamo dare il terzo. Che dici, Carlo? Vai, Laura, dai il terzo indizio. Allora, il terzo indizio è molto ascoltato. Quindi ci ha provato molte volte, non lo sentivamo da un po' di tempo, come hai detto correttamente tu, Carlo, ed è anche molto ascoltato. Personaggio della settimana, 824 0024. Intanto a questo punto ci colleghiamo con Perugia, con Marco Santoboni, un dirigente del Perugia Calcio. Buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti. Perché ci ha colpito molto a proposito, no, di sportivi che non si tagliano lo stipendio, ma ci sono invece sportivi che vogliono farsi sentire vicini al loro pubblico. Hanno, come voi, fatto voi avete scelto questo modo per stare vicini al vostro pubblico, cioè telefonare. telefonare agli abbonati, giusto? Come è venuta questa iniziativa e come viene fuori? Insomma, direi con successo, però poi dopo ci racconti lei magari. Ma soprattutto far chiamare i calciatori, perché l'idea straordinaria è far chiamare i calciatori direttamente agli abbonati. Sì, esatto, l'idea in realtà è molto semplice, è un'iniziativa molto semplice, ossia quella di far chiamare i calciatori. Abbiamo dato loro una lista di persone da contattare, soprattutto le persone più anziane, quelle che magari si trovano in una situazione di difficoltà, in isolamento, lontano dai familiari. Abbiamo chiesto ai calciatori di chiamare e il primo è stato Cario, il nostro portiere. Il 17 marzo ha chiamato una coppia di abbonati e devo dire che il risultato è stato eccezionale, perché dopo lo stupore iniziale del tifoso nel sentire che insomma viene contattato, anche un po' di diffidenza nel dire no, ma mi state facendo uno scherzo. Vabbè, certo, come quando Papa Francesco telefonava, no? Che non ci credeva nessuno. Esatto, invece poi ne è nata una condivisione di pensieri, di preoccupazioni. In questo momento siamo un po' tutti sulla stessa barca, insomma vale anche per i calciatori, sono qui a Perugia, sono a casa, insomma credo che il senso di smarrimento valga anche un po' per loro, in attesa di capire quel che sarà poi del campionato e di tutto il resto. Se vi devo dire l'origine dell'idea, qualche giorno prima il nostro presidente aveva pubblicato un video in cui era appena tornato dal fare la spesa e raccontava di aver sentito l'inno nazionale sui terrazzi, insomma cantato dalle persone, si era commosso, si era emozionato e proprio dai commenti si vedeva che c'era veramente una volontà di medesimarsi, di vedere insomma questi piccoli gesti. Da là ho avuto modo di vedere un paio di video di Frank Matano, pensate, un noto volto televisivo, che chiamava le persone a casa in maniera assolutamente casuale, trascorreva un po' di tempo con loro. A quel punto mi sono chiesto come potevamo noi in maniera molto semplice fare qualcosa di carino per i nostri tifosi e da là è nata l'idea. E quindi adesso Frank Matano gioca nel Perugia, cioè avete comprato Frank Matano, lo fate giocare nel Perugia. Esattamente. Esatto, mi scusi, l'ho interrotta. No, assolutamente, diciamo che la spontaneità di quelle telefonate che lui faceva alle persone mi ha fatto scattare un po' la molla di dire dobbiamo fare qualcosa anche noi, una cosa semplice, e quindi ecco abbiamo preso la nostra banca dati di tutti i nostri abbonati, abbiamo visto quelli che erano quelli un po' più anziani, poi qualche telefonata l'abbiamo anche pubblicata. Infatti dopo che i calciatori parlano con queste persone, io dopo li ricontatto e sento che sono veramente molto emozionati, perché in quel momento non è che li sta chiamando semplicemente il giocatore, li sta chiamando la loro squadra del cuore. In una lunga giornata insomma può fare veramente la differenza e l'abbiamo proprio riscontrato. Senta, ma la mia curiosità è, ma anche Serse Cosmi fa le telefonate? No, Serse Cosmi, devo dire che l'entusiasmo, perché sarebbe straordinario, insomma, voglio dire, come motivatore io credo che Serse Cosmi potrebbe fare addirittura delle video telefonate per convincere tutti a starsene a casa. È eccezionale, è vero, e le do perfettamente ragione. Lui è stato entusiasta, ha chiamato una tifosa che compiva gli anni qualche giorno fa e quindi le ha fatto gli auguri, ha avuto modo di farci una chiacchierata e ci chiede anche lui di continuare a chiamare persone, perché ecco in questo momento riesce molto difficile parlare di calcio, però il calcio può aiutare nella misura in Cosmi, cui Cosmi diciamo, si occupa dei compleanni, diciamo, sostanzialmente. Esatto, allora gli abbiamo dato tutto il settore compleanni. Ma io le volevo chiedere solo una cosa, nel senso che giustamente, come stava dicendo lei, all'inizio c'è un po' di sorpresa, immagino, e mi sembra anche la parte più bella questa, dove è il calciatore per una volta che ti chiama a casa, magari la domenica quando tu eri abituato da abbonato a prepararti, vestirti per andare allo stadio. Le volevo chiedere una cosa, mi immagino che in queste telefonate ci siano anche domande difficili del tipo: c'è qualcuno che chiede cosa facciamo con questi abbonamenti? Rimborserete gli abbonamenti? Che cosa accadrà? Avremo l'abbonamento della stagione successiva quando si reinizia a giocare? Guardi, al momento no, nessuno ha fatto domande in tal senso. Poi guardi, il nostro centrocampista Falserano ha chiamato la signora Franca, che è una grande tifosa del Perugia, ha fatto, insomma, è abbonata da tantissimi anni e fino a qualche tempo fa faceva anche tutte le trasferte, e proprio è stata lei che ha detto al giocatore: ah, io sento dire a qualcuno riguardo al rimborso degli abbonamenti, che poi ovviamente qualcuno ha ragione di dirlo assolutamente, però lei diceva: per me non esiste, io voglio dare una mano alla mia squadra del cuore, insomma, come dire, le persone più anziane quando parlano della loro squadra del cuore ne parlano veramente con il cuore in mano, in maniera, come una fede. Sì, assolutamente sì, quindi non è mai nato, diciamo, tranne ecco la signora Franca, appunto, che ha aperto il discorso, ma lo faceva anche in maniera più generale, dicendo che sento criticare le persone il Perugia perché non vince. Allora io alle persone gli dico: ma voi ci venite allo stadio a vedere la squadra, perché se non ci venite non avete titolo a parlarne. Quindi la sua era un po' ne ha colto l'occasione per ringare. Ha colto l'occasione per ricordare, insomma, molto giusto, la signora Franca ricorda: non pensare che cosa fa la tua squadra per te, ma che cosa puoi fare tu per la tua squadra. Esattamente, esattamente. Ma vi posso dire poi una cosa? La telefonata nasce, certo, con l'idea di dare conforto alle persone, ma si percepisce come al termine della telefonata spesso sia il calciatore che ne finisce rincuorato, confortato, perché le persone anziane sono anche in grado di, diciamo, di tranquillizzarti, di darti quella parola che non so. Sì, ti fa sentire comunque una rete attorno, ecco, non sei, sì, sì, non sei solo là in mezzo al campo, ma sei in una comunità. Anche perché poi c'è, fondamentalmente c'è un ragazzo magari di 20 anni, di 22 anni, 23 anni, che chiama una persona più anziana, in quel momento è la persona più anziana che dà una pacca sulla spalla, addirittura quando ha chiamato il nostro attaccante Falcinelli, che al momento, diciamo, ha vissuto una stagione un po' tra alti e bassi, più bassi che alti, difficile, rispetto alle aspettative, non è riuscito ancora a fare i gol che si era promesso di fare, e c'è il signor Lino che gli dice: Diego, mannaggia, ma questi gol quando li fai? Comunque sappi una cosa, che il sacco è tanto al dritto che al rovescio, gli dice una cosa del genere, come per dire: vedrai che la cosa si girerà, non ti preoccupare, forza e coraggio. Ecco, quindi hai visto, c'è anche il conforto, c'è anche il conforto sportivo. Marco, ci dobbiamo l'ultima, ci dobbiamo salutare. No, abbiamo notato con piacere che l'iniziativa è stata ripresa anche all'estero, anche in Premier League altre due o tre squadre hanno fatto proprio questo tipo di iniziativa, e quindi ci fa capire che, insomma, è qualcosa di semplice però molto spontaneo e significativo ed efficace. Grazie Marco Santoboni, Perugia Calcio, e ci salutiamo. Invece diamo un benvenuto a Sandra dalla provincia di Como, che ha chiamato per il quiz. Buongiorno. Buongiorno Sandra. Buongiorno. Salve. Allora, io per il personaggio, siccome ho sentito, non lo sentivamo da tanto tempo, ho pensato a Bob Dylan, che ha messo in circolazione una canzone inedita e era da diversi anni che non si sentiva. Allora, allora la una canzone lunghissima, se ho letto bene, giusto? Non l'ho ascoltata, non se lo ricordo. Che parla, si riferisce a Kennedy, a John Kennedy, ma non l'ho ascoltata, ho solo letto la notizia sui giornali. Sicuramente è molto ascoltato. Sentiamo un po'. No. E non era lui, non era Bob Dylan. Ma sentiamo se Andrea... Che ha scritto una canzone di 17 minuti. Hai capito? Ha scritto una mezza opera. Allora, Andrea, dalla provincia di Trento, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Buongiorno Andrea. Allora, chi è, buongiorno, secondo lei il personaggio della settimana? Mario Draghi. Mario Draghi. Allora, ci ha provato molte volte. E qual è la notizia? Non lo sentiamo da tempo, è molto ascoltato. Su due, vabbè, ma ci ha provato molte volte, non saprei. Comunque. Sì, è vero, però. Beh, potrebbe essere interessante. No, però ce l'ha bocciato subito proprio. Non ci ha dato. Però io voglio sentire che cos'è che ha provato molte volte e anche qual è la notizia su Mario Draghi di questa settimana. Ma c'è un sondaggio su Milano Finanza per sapere se Mario Draghi è voluto come futuro presidente del Consiglio. Ma lui non ha esatto, voluto, però lui non è voluto, cioè lui stesso non si vuole presidente del Consiglio, credo, non ancora almeno. Ma se qualcuno può fare qualcosa per la squadra del Perugia, lui forse può fare qualcosa per lo Stato italiano. Allora, noi potremmo far chiamare i calciatori del Perugia Mario Draghi e vedere se lo convincono, magari. Questo è un cortocircuito straordinario, Laura, veramente, perfetto. Va bene, Andrea, grazie molte, l'odiata viabilità in questo momento. Si può fare. Premio L'altro pianeta. Il premio L'altro pianeta questa settimana lo attribuiamo ad Aldo Winkler dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per uno studio che sta compiendo sui licheni come centraline per misurare l'inquinamento in città. Buongiorno, è in collegamento? Sì, sono in collegamento, buongiorno a voi. Ah, ecco, no, non vedevo il nome sul monitor, mi preoccupavo, dicevo, ma insomma, ma possibile? Allora, appunto, ci spieghi un po' i licheni come centraline per il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria, in particolare a Milano, ma insomma potrebbe essere ovunque poi, no? Una volta accertate le loro capacità di misurare. Sì, esattamente. Noi abbiamo fatto uno studio utilizzando i licheni proprio in area urbana a Milano per valutare l'inquinamento atmosferico ed è ben noto oramai da diverso tempo che i licheni sono degli ottimi, come si dice, bioindicatori, essendo molto sensibili all'inquinamento atmosferico e agendo, come si dice, come vere e proprie sentinelle biologiche. Questo dipende dalla loro struttura, infatti sono privi di radici e stomi e quindi dipendono completamente per ricavare i nutrienti dalla deposizione delle sostanze presenti in atmosfera. Ah, quindi si nutrono in sostanza dell'aria? Esattamente, quindi per deposizione il loro contenuto e i loro nutrienti dipendono naturalmente proprio dall'aria che anche noi assumiamo e respiriamo. Ma noi muschi e licheni li vediamo sempre insieme, cioè che differenza c'è tra l'uno e l'altro, scusi? Ma è una questione un po' forse, diciamo così, storica, perché colonializzano, abitano in ambienti simili, sono detti infatti organismi pionieri proprio perché aprono la strada ad altre specie anche in zone molto spesso inospitali. In realtà sono organismi molto diversi, in quanto i muschi sono vere e proprie piante, anche se estremamente semplici, prive di vascolarizzazione. Vivono principalmente su rocce, alberi, in zone dove prevalgono ombra e umidità. I licheni invece sono associazioni tra funghi e alghe o talvolta batteri fotosintetici e che vivono in simbiosi traendone reciproco vantaggio. Il fungo vive grazie ai composti organici, all'energia prodotta dalla fotosintesi dell'alga e l'alga in cambio ne riceve protezione, sali minerali e acqua. Ok. Dunque, quindi... Beh, abbiamo fatto il nostro servizio, visto che le scuole sono chiuse giustamente anche di domenica facciamo mattina, perché anch'io volevo fare la domanda su muschi e licheni, perché è ovviamente quello che abbiamo dalla nostra educazione scolastica. Devo dire che nella spiegazione la cosa che mi sembra più bella è che i licheni aprono la strada e quindi chi meglio di loro per controllare l'inquinamento? Onestamente mi chiedo come venga un'idea di usare i licheni. Guardi, è un'idea oramai nella comunità scientifica che è valorizzata e sicuramente nota da diverso tempo, proprio per la loro struttura e per essere degli organismi semplici che ci danno delle informazioni aggiuntive rispetto a delle centraline che sono oggetti meccanici e che quindi non ci danno in realtà delle risposte dal punto di vista biologico. Quello che mi preme dire è che in tutte le scienze è sempre più importante andare a livello di multidisciplinare, quindi unire diverse competenze e diversi sistemi di osservazione e talvolta le centraline non sono facili da installare perché costose anche da manutenere e quando poi sulle centraline c'è anche sempre stata la discussione di dove sono messe, le hai messe in quell'area lì che dove non prende abbastanza, il lichene invece dov'è? proprio così, tra l'altro abbiamo possibilità, si dice, di trapiantarli, quindi di prenderli da zone in cui sono completamente pulite, portarli a livello osservativo, quindi per fare osservazioni anche a grandissima densità e quindi caratterizzare l'inquinamento anche con tantissimi punti di osservazione, cosa che non si può fare ovviamente con le centraline, che non si può pensare di mettere 20 centraline in un'area molto ridotta a livello di superficie. Certo. Quindi ma è molto comodo questo approccio. Ma i licheni li portate voi, giusto? Cioè, si possono quello fare, che mi chiedo, sia... i licheni li portate voi, non è che vi occupate dei licheni che già trovate in loco? Allora, si possono utilizzare tutte e due le strategie, quindi sia analizzare i licheni già presenti, ove presenti naturalmente, oppure fare dei trapianti e quindi portarli, lo fanno i nostri colleghi per esempio di Siena di biologia, che prendono dei licheni da zone pulite e li trapiantano in altre zone per vedere come cambiano le loro caratteristiche nel tempo. Dunque, lei ha nominato l'Università di Siena, c'è anche l'Università Federico II di Napoli, vero? Esattamente, e ne approfitto con grandissimo piacere per fare un saluto ai colleghi di Siena, Stefano Loppi, Tania Contardo e Andrea Vannini, che hanno fatto le analisi biologiche, e invece a Napoli, all'Università Federico II, Adriana Basile e Sergio Sorbo si sono occupati delle splendide osservazioni al microscopio elettronico. Io invece lavoro all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e mi occupo di magnetismo, di un laboratorio di paleomagnetismo. Noi facciamo misure proprio magnetiche sui licheni per vedere il contenuto in metalli che si vedono bene con questo genere di misurazioni. È un sistema, diciamo, più economico, tra virgolette, per condurre queste analisi, usare i licheni invece delle centraline, o proprio si ottengono risultati che devono poi, no, essere messi insieme perché non, nessuno dei due è completo? Sì, ribadisco il concetto. Probabilmente si deve andare nel tempo verso una caratterizzazione di diversi tipi di analisi per avere un quadro decisamente completo. Tra l'altro le centraline spesso vengono utilizzate per darci dei dati, dei contenuti giornalieri, invece con i licheni riusciamo ad ottenere, lo facciamo anche con le foglie per esempio, dei risultati di bioaccumulo, si chiama, mediati nel tempo, anche nel lunghissimo periodo. I licheni possono vivere anche per tanto tempo e quindi otteniamo dei risultati naturalmente complementari che ci danno un quadro decisamente più completo della situazione. Quindi indipendentemente dal contesto, quindi dai costi economici, è proprio anche un fatto di integrare dati per avere una caratterizzazione più completa. Allora, noi la ringraziamo molto per questa spiegazione e vi auguriamo ovviamente una buona ricerca, una buona prosecuzione. A presto e alla prossima occasione. Grazie mille, un saluto e un augurio a tutti di stare bene. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Abbiamo un paio di audio da sentire. Famiglia di Sansà, sta qua. Tata va a casa, Zallanut, da Napoli. Ah, beh, allora dai, io li ho capiti tutti e due, tu? Sì, direi proprio di sì. Sta qua, soprattutto, direi che è quasi nazionale a sto punto. Allora, tutti e due sono molto chiari, ma continuano ad arrivare altri che non so se riusciremo poi a farveli sentire ancora, ma in ogni modo invece arrivano anche molte segnalazioni di libri. Carlo, ti farà piacere sapere che i ragazzi della Via Pal sono, certo, molto nominati, ma sono arrivate anche Le piccole donne, Michele Strogoff, I viceré, Delitto e castigo, e poi uno straordinario, L'Artusi, quindi qualcuno come primo libro si è letto un libro di cucina. Ma hai capito? L'Artusi è molto più di un libro di cucina. Lo so, però dice: avevo 7 anni, cercavo disperatamente qualcosa da leggere. In casa c'erano pochi libri, ho trovato questo e l'ho letto. Aggiunge poi: ci ho fatto. Scusami, no, questo non l'avevo capito. Craffen. Cioè, il suo primo libro. Sì, no, questo sì, il suo primo libro. È molto particolare. No, pensavo fosse il libro che sognava sempre di leggere, allora dicevo: L'Artusi è più di un libro di cucina. No, effettivamente, L'Artusi come primo libro è particolare, è vero? Insomma. Sì, molto. Allora, vabbè, comunque ha fatto anche i suoi primi Krafen, poi ci ha scritto, quindi insomma ci ha fatto veramente, si è dato da fare. I primi Krafen mi sembra un bel titolo anche per una biografia, i miei primi 40 Krafen forse. Anche 50, chi lo sa. Allora, abbiamo un concorrente ancora per il nostro quiz che è Claudio da Pisa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno Claudio. Secondo le indicazioni che avete dato e il discorso, no, che è legato molto al periodo, avevo pensato a Robby Facchinetti. Perché? Cosa è successo in settimana con Robby Facchinetti? È uscito con la canzone Rinascerai, che è molto ascoltata sui Bergamo, sui social, naturalmente dedicata alla sua città. Certo. Ci ha provato molte volte, vabbè, insomma, più che provarci lui ci è riuscito molte volte, non lo sentivamo da un po', è molto ascoltato. Ma non era lui, però insomma abbiamo ricordato anche Robby Facchinetti, la canzone, ci ha fatto molto piacere. Claudio, grazie. Allora, Alessandro ci chiama dalla provincia di Vicenza. Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Alessandro, buongiorno. Chi è, buongiorno, secondo lei il personaggio della settimana? Ma secondo me è il nostro Presidente della Repubblica, Mattarella. Perché? Perché nel discorso della nazione fatto qualche giorno fa, nel fuori onda è stato trasmesso un fuori onda degli stacchetti praticamente che il suo maggior popolo faceva presente il fatto che non era pettinato in modo adeguato e quindi è andato anche in onda questo pezzo qua, e quindi penso sia lui il personaggio che voi avete appunto pensato. Allora, non so, notaio, cosa ci dici? Ci dice che era veramente lui, sì, ed è stato bravissimo lei, il nostro ascoltatore, perché la motivazione è esattamente quella, la storia del ciuffetto, il fatto anche di renderci più umano il nostro presidente, di vederlo lui in difficoltà. Ha fatto anche diverse papere, ci ha provato più di una volta. 60 milioni di italiani. Certo. Allora, Claudio è rimasto il nome Claudio, invece non è lei che... Io sono Alessandro. Esatto, lei è Alessandro. Sì. Alessandro, dunque, lei ha indovinato, verrà ovviamente ricontattato dal nostro centralino, sa che vince libri, vero, non biglietti per le mostre in questo momento. Che cosa sta facendo, come si prepara la sua giornata? Vediamo se riesce a dircelo allora, in chiusura. Io sono purtroppo in quarantena, sono isolato perché sono un operatore sanitario e durante i controlli fatti all'interno della struttura dove lavoro sono risultato positivo a uno dei tamponi che mi hanno fatto. E quindi a maggior ragione in bocca al lupo, buona giornata, grazie. Si riguardi. E quindi mi sono isolato completamente dalla famiglia, ho la possibilità di avere una seconda abitazione, quindi mi sono isolato completamente da tutti per 14 giorni. Adesso al momento sono asintomatico, non ho grandi problemi. Però attendiamo appunto... Noi speriamo di tenerle buona compagnia. Sì, no, in effetti Radio 24... La richiamiamo settimana prossima, così per sapere come sta. Perfetto. D'accordo, grazie a tutti, grazie a Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari in redazione, e c'è anche Carmelo Lauricella. Carlo, ci ritroviamo la prossima settimana. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e da Carlo Gabardini, ciao, certo che ci sentiamo la prossima settimana, ciao a tutti.